Salve a tutti, bentornati sull'Arcadia, grazie a Radio Big World. Io sono Gabriele e oggi abbiamo, diciamo, l'ultima parte per ora di questa cosa della decodifica. Poi facciamo una pausa. Questa è più concentrata sulla terra piatta. Però prima voglio fare un appunto che è tanto e lo voglio dire. So che è stupido. Forse no. Però in Pollon, non solo in Pollon, mi viene da pensare a Pollon perché c'ho, diciamo, la rappresentazione grafica in testa di quello. Però c'era Apollo che portava il sole, spostava il sole con un carro. Sì, spostava il sole. E io anche in Pollon mi ricordo che c'aveva questo carretto che ci metteva il sole e se lo portava a spassare il suo lavoro, se lo portava in giro. Torna con il discorso della terra piatta, che il sole non è lontanissimo, però vabbè, lasciamo stare, ripartiamo. Fino a qualche anno fa ero convinto che il più grande segreto nascosto all'umanità fosse che la Terra fosse piatta. Ogni piccolo anello che mettiamo insieme, che ho iniziato a mettere insieme, diciamo, risuona con l'altro, risuona con quello prima, riprende quello prima, è collegato all'anello prima. Anche se alcune cose possono essere incredibili, però ha senso, ha senso. È difficile a volte spiegare alcune cose, purtroppo c'è quello che guarda dal telescopio, vede una pallina colorata, un punto colorato nel cielo e dice: "Vedi, a me basta quello. La Terra è tonda, è una sfera che gira a 1600 km/h. Non c'è speranza. Comunque, quindi ci sono delle teorie che praticamente il polo nord sarebbe diciamo, il luogo dell'Eden. Cerchiamo di spiegare questa cosa. Quindi, l'altra volta abbiamo parlato della stella polare che è immobile, ovviamente, che è fissa e tutto il resto gira intorno a questo punto, che sarebbe anche l'occhio che vede tutto e tutto gli gira intorno. E Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda fanno la stessa cosa, sono in cerchio su un punto e la tavola rotonda è come se fosse lo zodiaco, Zu de Arc, lo zoo dell'arca, Zu of the Arch, 12 costellazioni, 12 cavalieri della tavola rotonda. La tavola rotonda è proprio questo: un tavolo piatto, rotondo, come la terra piatta. Quindi abbiamo Re Artù che è al centro, che rappresenterebbe la stella polare, e il resto che è intorno, come nell'ultima cena. Abbiamo Gesù che è al centro, sotto un arco, che perché abbiamo Gesù che è in mezzo con i 12 discepoli intorno, che gli girano intorno, sono in movimento, lui invece è fermo, gli altri si vede nel quadro che sono tutti in movimento e sono divisi in gruppi di tre che rappresentano le quattro stagioni. Nello zodiaco cinese c'è la stessa identica cosa, e gli animali dello zoo che girano intorno al centro, rappresentato da lo yin e lo yang, il bianco e il nero, il sole e la luna, il bene e il male. Lo stessa cosa per il tempo, sono 12 ore del giorno che gira intorno a un centro. Il centro è anche il punto del magnetismo, nord magnetico. In molti dipinti o rappresentazioni della Terra antiche abbiamo quattro terre intorno a questo tipo piramide o monte, come il Mount Meru, come la stessa cosa per ci sono anche diversi colori che rappresentano queste quattro terre, e ognuno di questi colori rappresenta una razza: nero, bianco, giallo e rosso, e sono tutte intorno alla terra dell'Eden, al centro, al polo magnetico praticamente. Quindi il paradiso sarebbe nella stella polare, l'occhio che vede tutto, sempre in alto, sempre aperto. Dio vede tutto e ha senso, quindi l'occhio che vede tutto è un simbolo buono, ma viene usato anche da quelli che seguono il male, le menzogne, quelli che seguono Lucifero. Quindi abbiamo Gerardo Mercatore, era un matematico, astronomo e cartografo fiammingo, e lui praticamente ha fatto un viaggio verso il Polo Nord, ha scritto una lettera a un suo amico a riguardo, John Dee, che era il consigliere della regina Elisabetta, non so tanto ferrato su questi argomenti. E se andiamo a cercare il quadro che lo rappresenta, vediamo la barba che rappresenterebbe triangolo che punta verso il basso. Quindi il triangolo che punta verso il basso è l'elemento dell'acqua, punta verso l'acqua, e l'acqua è anche il simbolo di Lucifero, associato alla luna. Inoltre è in una grande O, è in un cerchio come se fosse in uno specchio, e rappresenta la O di Omega, l'energia della luna e dei quelli che seguono la mano sinistra. E descrive questa terra che ha trovato al Polo Nord e dice che è circondata da ogni lato, da ogni parte, cioè descrive la terra come circondata dalle terre, tranne che al centro, con una grande montagna al centro che raggiunge le nuvole e è senza vegetazione. E praticamente nel nord, ora la terra nel disegno, la terra è divisa da quattro fiumi. Il Polo Nord è diviso in quattro in questo disegno, è diviso in quattro fiumi, con al centro questa pietra in cui ci sono forti correnti. Quando si guarda la mappa, questa mappa ricorda anche un po' un fiore, dove ogni parte di terra ricorda un po' un petalo, e il monte nel mezzo sarebbe lo stigma. Quindi lo stigma sarebbe la montagna, Mount Meru, quindi rappresenterebbe la parte maschile, invece i petali la parte femminile. E mi ricorda anche il simbolo del bullseye, quello del centro, che si usa per le freccette o tiro con l'arco. Quindi poi abbiamo anche il numero 22, che ritroviamo spesso, quindi sarebbe Cristo nel mazzo dei tarocchi. Nelle carte dei tarocchi abbiamo il 22, che è Cristo, the fool card, che mostra praticamente Cristo che ha completato il suo tempo sulla terra. E anche la massoneria usa questo numero. E non dimentichiamoci del cuore, in inglese heart, e ha 4, a 4, diciamo, camere il cuore, praticamente come l'acqua circola nella terra, uguale fa nel nostro corpo il sangue. E anche i colori che rappresentano, a vedere, il cuore, c'è il rosso e il blu. Il rosso è a destra e il blu a sinistra, come nelle vesti di Gesù, la parte positiva e la parte negativa, come in un magnete. La parte destra è rossa, positiva, la parte negativa è blu, la parte blu a sinistra negativa. Di questo non ne so sicuro, però di niente tutto questo so sicuro, però per me ha più senso rispetto a tante altre cose. Diciamo, nella massoneria venerano l'est, il sud e l'ovest, e considerano il nord il male, perché sanno che il nord è il trono di Dio. E trono, in inglese throne, è l'anagramma per nord, e chi è ricordato per essere il re del nord? Gesù. Poi abbiamo Santa Claus, Babbo Natale. Santa sarebbe Santa Claus, sarebbe l'anagramma per Satana. E in tante immagini di Babbo Natale fa con il dito il simbolo del silenzio. L'albero di Natale è, diciamo, il simbolo dell'albero della vita, un simbolo buono. Poi abbiamo la parola Hyperborea, Hyper e Borea, è il vento del nord. E abbiamo l'aurora borealis, l'aurora boreale, che sarebbe aurora, sarebbe luce, e borealis, che sarebbe il nord. E il nome aurora boreale ricorda un po' l'oroboro, Ouroboros. Oro rappresenterebbe il cerchio, e boros il nord, l'anello del nord, sarebbe la montagna che sarebbe il cerchio intorno al monte, al centro. Nell'Oroboro invece abbiamo il serpente che fa come un anello intorno all'albero della vita. Quindi diciamo che cercano di portare la nostra attenzione verso il sud, verso il muro che ci circonda, che diciamo non è speciale, a differenza come lo è il polo nord, il centro, il cuore. E l'Eden ha anche nomi diversi negli anni, diciamo, e anche per ogni civiltà, come Mount Meru, Maraia, Monte Olimpo per i greci, e Sumeru, Sumeria, i Sumeri, dovrebbe essere la prima civiltà registrata. Quindi non sarà l'ultima puntata a parlare di queste cose, però facciamo un po' una pausa per un po'. Vi saluto qui, grazie a Radio Big World, grazie a tutti quelli che mi ascoltano. Ho incontrato l'altro giorno un ragazzo al bar che ha un programma qui su Radio Big World, lo saluto, lo ringrazio, mi ha fatto tanto piacere. È il volo dell'Aquila. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.